Rotondi, nella lettera che ha scritto, diciamo, guidando un po' questa fronda a Berlusconi dopo il mancato invito al vertice a Palazzo Grazioli, ha detto: questa cosa non resterà senza conseguenze. Giovanardi, quali potrebbero essere le conseguenze? Guarda, anche una rottura? Gli sbocchi evidentemente sono due, perché noi abbiamo in giro per l'Italia più di 1000 consiglieri comunali, provinciali, regionali. Siamo stati determinanti per vincere il Piemonte, per vincere l'Abruzzo, con il milione di voti che abbiamo portato nel momento in cui ci siamo staccati dall'UDC, abbiamo fatto la scelta del PDL. Allora, o Berlusconi ci dice: no, ma voi del PDL, come avevamo convenuto all'inizio, fate parte, siete parte integrante, siete negli organismi del partito. Però mi sembra che il mancato invito sia già un segnale che questa far parte... Insomma... Noi infatti che abbiamo chiesto, dicendo: se no, sempre rimanendo nel centrodestra, sempre rimanendo reali nel governo, se non siamo desiderati o ritieni che la nostra presenza nel PDL non sia una presenza... Fate anche voi un gruppo autonomo, magari. No, non un gruppo. Ci mettiamo d'accordo nel costruire. Pionati, per esempio, ha fatto un partito che si chiama Alleanza di Centro, che è strettamente alleato col PDL, che sta nel... Oddio, ci gira la testa, perché qua un altro partito adesso... No, ma scusi, ma non dipende da noi. Io le sto dicendo che noi siamo cofondatori del PDL. Vogliamo stare nel PDL. Riteniamo che il PDL debba avere, oltre la destra e un'area laica socialista, anche una presenza democratica cristiana. Se poi lei mi dice: ma e se loro non vi invitano e non vi vogliono, lei capisce che se a questo punto dice non vi invitano e non vi vogliono, bilateralmente e assieme si faranno dei ragionamenti. È difficile stare in un luogo che si è cofondato se si dice la vostra presenza non è gradita.